La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo. Strade senza luci, strade senza respiri, strade vuote per paura di questi vampiri, strade che ascoltano lamenti di barboni. Oggi c'è nebbia, c'è paura degli invasori, bambini arrangiati per le strade, soli, senza vie di scampo, e se adesso muori non fregherà niente a questi sfruttatori. Prostituzione che scorre quasi ovunque a fiumi, quindicenni abbandonati a se stessi. Al sud Italia questa mafia ci fa pessi, oggi l'Italia chiude troppi occhi, oggi nel mondo ci sono troppi giri sporchi. E tutto ciò che chiedo è pace, e quando vi guarderò dal cielo sporgerò la mia croce per fulminare qualsiasi tipo di frase favorevole ad ogni attività mafiosa. E cadono i petali della mia dolce rosa, si sfogliano parti di questa vita odiosa, si sfogliano parti di speranza furiosa. C'è poca pazienza, la loro vita offesa, e così da adesso passerà questa unica e clemente opportunità. E così da adesso passerà questa unica e clemente opportunità. Voglio un momento, voglio solo un momento per vedere questo mondo senza più lamento. E dimmi cosa posso fare per il vento che porti voce a Dio per questo mio intento. Voglio un momento, voglio solo un momento per vedere questo mondo senza più lamento. E dimmi cosa posso fare per il vento che porti voce a Dio per questo mio intento. E sbalordito il diavolo rimase quando comprese l'oscenità del bene. Ti voglio bene, amore, ti voglio bene. Ci deportavano marchiai a fuoco insieme. Ecco le parole di quella generazione, milioni di persone afflitte da quel dolore. Strade senza luci e strade senza respiri, strade di intrallazzi che guadagnano sui giri. Le brigate rosse a cui ci puntano i mirini, Hitler che ha ammazzato degli ebrei tra quei bambini. La razza quella nera, la razza d'ospedale, quella da combattere perché era normale. Fanculo il mio governo, fanculo il tuo governo, sì. Destra, sinistra, per noi qui è sempre inverno. Le tasse le paghiamo, eppure non mangiamo. Politici che dicono moriamo, combattiamo. Io adesso vado in guerra, combatto per la patria. Tu me l'hai ordinato, prendi il sole su una sdraia, sì. Voi mi ucciderete perché questa è la realtà. Io vi aspetto fermo e mobile, un civile se ne va. Io le parole, voi le pistole, noi il coraggio, voi la delusione. Quante preghiere poi tutte le sere, quante persone vogliono sole. Voglio un momento, voglio solo un momento per vedere questo mondo senza più lamento. E dimmi cosa posso fare per il vento che porti voce a Dio per questo mio intento. Voglio un momento, voglio solo un momento per vedere questo mondo senza più lamento. E dimmi cosa posso fare per il vento che porti voce a Dio per questo mio intento. Voglio un momento, voglio solo un momento per vedere questo mondo senza più lamento. E dimmi cosa posso fare per il vento che porti voce a Dio per questo mio intento. Voglio un momento, voglio solo un momento per vedere questo mondo senza più lamento. E dimmi cosa posso fare per il vento che porti voce a Dio per questo mio intento. Voglio un momento, voglio solo un momento per vedere questo mondo senza più lamento. E dimmi cosa posso fare per il vento che porti voce a Dio per questo mio intento.